pezzi di oro antico brillano mille stelle. Soffia un brivido di vento in alto sopra i castagni. Guarda quanta luce stai atterrando. Dio, quanto t'ho aspettato seduto qui. Dimmi dove siete e se ci guardate. Accarezzo con lo sguardo l'arco di questa notte. L'universo ha troppe stanze per essere solo nostro. Quanta libertà se guardi in alto, come immenso il cielo.